Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Quando si incominciò a parlare delle indagini aperte dai PM De Magistris Forleo, vi scrissi che non avrei voluto essere nei panni dei due indagatori. Il tempo mi ha dato ragione. Era lampante. Per assioma, gli uomini della sinistra sono sempre innocenti o comunque al di sopra del bene e del male. Per questo sapevo che i due incauti PM sarebbero stati puniti. Al massimo si può procedere verso qualche soggetto non troppo gradito. Vedi il caso del turco. Ora sta forse cambiando qualcosa? Non credo. Dopo un'altra piccola ondata di agitazione dovuta a semplice guerra tra procure, chissà per quali motivi, tutto si dissolverà nel niente. Avremo l'ennesima archiviazione del caso e, se qualcuno ci lascerà le penne, sarà qualche personaggio della destra o ad essa riconducibile, dal momento che, solo in detta area, si celano i mascalzoni e così l'integrità morale dei politici della sinistra sarà salva e, ancora una volta, dimostrata in maniera lampante. Carlo. Sono allibito dall'arroganza con la quale i rappresentanti della comunità islamica rispondono alle questioni e ai problemi. Ricordo a questi signori che gli ebrei e i cristiani fondamentalisti o tradizionalisti non creano problemi di ordine pubblico in Italia, né nascondono o reclutano gruppi di terroristi. In Italia abbiamo sopportato leggi dure per il controllo dell'ordine pubblico. Ricordiamo la legge Reale e le leggi speciali nel periodo delle Brigate Rosse. Non vedo perché questi signori non debbano accettare una regolamentazione speciale, dato che il problema, quando c'è, nasce proprio nel loro interno. Non mi risulta ci siano terroristi ebrei in Italia. Insomma, loro hanno portato in Italia problemi che prima non c'erano. Siamo disponibili ad accoglierli qui, purché si sottopongano alle nostre regole e leggi. E se fossero stati più attenti a quelli che hanno attorno, forse non ci sarebbe tutto questo caos. Fabio. Scusate, ma se a voi un ristorante non piace, ci tornate a mangiare? Se i musulmani hanno dei problemi a stare in Italia, che vadano in Germania, oppure ovunque esista un habitat più accogliente per le loro necessità. Qui di moschee non ce ne sono, è semplice. Emiliano. Ricordo che in piazza San Marco, in un periodo ben meno caldo dell'attuale, a qualche veneto armato di carro armato e grappa hanno fatto scontare sino all'ultimo giorno di galera, solo per colpa di qualche dichiarazione di indipendenza. Penso vadano citati quei poveretti. Si sono fatti anni di galera solo per un'idea alla Carlo Cattaneo. Come si può evitare di pensare a un collegamento tra moschee e terrorismo di questi tempi? E poi, cosa succederebbe se le parti fossero rovesciate? Alberto. Egregio signor direttore, è corretto tagliare anche dove si risparmia, seppur in tempo di crisi? Sono vicepresidente con incarico amministrativo di una scuola materna parrocchiale paritaria, non statale, con 102 bambini, di una grossa zona periferica della città di Vicenza. Lo Stato, per ogni bambino che frequenta la scuola materna statale, secondo i dati della Federazione Italiana Scuola Materne, spende circa 6.000 euro all'anno, ne recupera 600 dalle rette, 60 euro per 10 mesi di frequenza, e ha quindi un costo secco annuo di 5.400 euro. Nella nostra scuola materna un bambino costa 2.313 euro annui, che affrontiamo con 1.312 euro dirette. I nostri genitori pagano più del doppio di quelli della scuola pubblica, e con 1.014 euro di contributi pubblici, 494 euro dallo Stato, 90 dalla Regione, 430 dal Comune di Vicenza. Lo Stato risparmia quindi 4.906 euro su ogni bambino che frequenta la nostra scuola. Ora, considerando l'ottimo stato degli edifici, offerti in comodato gratuito dalla parrocchia, e il notevole livello della cura verso i bambini, così affermano i nostri genitori, dovremmo poter dire di avere finalmente un servizio che funziona bene e a costi contenuti, almeno per lo Stato. Ma così non è, perché i contributi ministeriali per le scuole paritarie non statali, stanziati per l'esercizio finanziario 2008 in 534 milioni di euro, sono stati ridotti in 133 milioni di euro, con una riduzione pari al 25%. Inoltre, nella legge finanziaria 2009 c'è un'ulteriore proposta di riduzioni pari a circa il 40% per il triennio 2009-2011. Ora, il nostro bilancio andrà inevitabilmente in rosso e quindi o aumenteremo ulteriormente le rette, ma non è più possibile. Siamo già oltre al doppio della scuola pubblica e la zona non è particolarmente ricca. Gente dignitosa ma modesta, operai, impiegati, eccetera. Oppure chiudiamo la scuola, che ha già un bilancio pesantemente in rosso. E i bambini dove andranno? Non ci sono scuole statali per accoglierli. E le famiglie cosa faranno? In quasi tutte le famiglie i genitori lavorano entrambi. È questa la politica per la famiglia? È proprio qui che si doveva tagliare? Su un servizio che fa risparmiare allo Stato? Mi perdoni, signor direttore, ma sono molto angustiato, mi sento frustrato. Potrei aver lavorato tanto, gratuitamente e con passione, per nulla. Non mi capacito della cosa e ne parlo con tutti. Pensi che talvolta, quando ci ritroviamo a cena con gli amici e le mogli ammoniscono bonariamente i mariti, questa sera niente politica, mia moglie mi guarda e aggiunge: e tu, niente scuola materna. Cosa vuole, signor direttore? È la passione. D'altronde, se non mi capite voi che sulla passione avete costruito un motto eccezionale. Cordialmente, Tullio Scalari, vicepresidente scuola materna parrocchiale Pio XII, Vicenza. Vorrei far notare la codardia di Sky. Pubblica l'email per scrivere a Tremonti e Berlusconi, ma guarda caso, la sua è irrintracciabile. Lasciamo stare poi la trafila che bisogna fare per disdire un abbonamento. Dov'è tutto questo coraggio? Avere in mano uno strumento univoco che non permette contraddittorio? C'è da vergognarsi. Il popolo sta con Tremonti e contro Sky, che si sappia. Giulio. Berlusconi ha dichiarato che se i consumatori non cambieranno abitudini, la crisi sarà di poco conto. Ma come fa a dire certe cose? Se la gente va in cassa integrazione, avrà meno soldi da spendere e i consumi si ridurranno. È un cane che si morde la coda. Forse lui crede che tutti abbiano le sue possibilità di spesa, ma non capisce che la gente normale di soldi ne ha meno. Daniele, Parma. Per ovviare alla crisi bisogna, nei limiti accettabili di ognuno di noi, continuare a consumare. Se no, si ferma tutto e allora sì che facciamo come l'Argentina. Basta con le cavolate di Sky oppure della vigilanza Rai, eccetera. Ma in questo momento, che ci frega? Qui stiamo mettendo in gioco il sistema Italia. Ragazzi, stiamo andando a gambe all'aria. Ma tutto questo, Veltroni & Company, l'hanno capito? Oppure ci vogliono far arrivare alla rivolta del pane? Roberto, da Latina. Oggi mi sento più che mai rammaricato, insicuro e perplesso sul destino della ristrutturazione e integrale intervento di riqualificazione energetica in corso nella mia abitazione. All'indomani delle dichiarazioni del ministro Tremonti riguardo alla correzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 185 del 2008 sulla non applicazione retroattiva dello stesso, nasce il quesito su chi effettivamente potrà usufruire del bonus. Dove saranno collocati quelli come me che hanno avviato i lavori nel 2008 per terminarli nel 2009, con conseguente asseverazione tecnica da inviare all'Enea al termine dei lavori? In riferimento a quale evento si farà rientrare il bonus? In base all'emissione o al pagamento delle fatture? In base a tutto quello che è stato asseverato e, quindi, terminato? O magari in base a tutto quello che è stato pianificato precedentemente al decreto legge in oggetto, attraverso la presentazione di una denuncia di inizio attività, con specifico riferimento al conseguimento di un miglioramento energetico o certificazione energetica dell'edificio? Non è forse opportuno inserire anche quest'ultimo punto tra le situazioni che rientrano nell'erogazione del bonus, dal momento che chi ha pianificato un investimento, con pesanti sacrifici, come nel mio caso, lo ha fatto sulla base di una norma, finanziaria 2008 e il decreto attuativo della stessa, dell'11 marzo 2008, che estendeva l'efficacia di queste situazioni fino alla fine del 2010, permettendo quindi di intervenire con la detrazione del 55% su una piattaforma di 3 anni? Non è forse anche questo un effetto retroattivo di una legge? In caso contrario, credo, come nella mia situazione, molti interromperanno le opere di ristrutturazione, lasciando le loro abitazioni come colabrodo da un punto di vista di tenuta termica. Io sono fermamente convinto che il rilancio dell'economia partirà proprio dalle case e dalle auto ecologiche. Abito in un piccolo centro montano dell'entroterra marchigiano, in una casa realizzata molti anni fa in economia da mio padre, col mio modesto aiuto, e che, dopo la sua scomparsa, ho ereditato. Aspettavo la buona occasione e la giusta dose di risparmi per rendere onore allo spirito innovativo e all'inventiva che mio padre aveva ricercato tanto tempo fa in quella casa. Solo certi legami affettivi e l'aver partecipato alla costruzione pietra su pietra della casa mi hanno tenuto legato al mio paese. Nonostante il basso reddito familiare, ho creduto in un pianeta più pulito per i nostri figli e una casa più confortevole, più calda e a bassi costi di gestione per la mia famiglia, sacrificando per questo tutte le spese oltre l'essenziale e i risparmi passati e futuri. Non credo che quello del governo sia un modo saggio di intervenire per far fronte alla crisi economica. Non si rilancia l'economia mettendo in crisi le famiglie, disposte a sacrificare tutto per investire sul futuro dell'ambiente, dell'economia e dei loro figli. Pierluigi. È di qualche giorno fa la notizia di un dipendente comunale che timbrava in ufficio per poi uscire e andare a lavorare presso la falegnameria di sua figlia. C'è voluto il ricorso delle forze dell'ordine per pedinarlo e documentare l'accaduto. Scusate, ma da quale punto di vista questo episodio fa notizia? Io lavoro nel pubblico e non capisco perché, quando si parla di questo ambiente di lavoro, ci si dimentichi che si tratta di un sistema organizzato, non di una cooperativa di professionisti singoli che si autogestiscono. In altre parole, per uno che timbra e risulta assente al lavoro, evidentemente in modo continuativo e non episodico, c'è almeno una segreteria, almeno un capo area, almeno un dirigente, che si sono distratti e non se ne sono accorti. E questi come li definiamo? È appunto questo che dovrebbe fare notizia. Che nonostante Brunetta, chi è pagato per controllare fa pure il fannullone. E bisogna ricorrere niente di meno che alle forze dell'ordine per andare a colpire il singolo caso su cui, per carità giustamente, si scatena l'indignazione generale. E chi avrebbe dovuto controllare su quante altre cose continua a fare il distratto e sulle quali i media non informeranno mai il pubblico? Gentile direttore, non pensa che si potrebbe essere un po' più analitici e completi quando si parla di fannulloni, visto che l'argomento è caldo? Fiorella. Ci sono 98 miliardi di euro che le concessionarie pubbliche di giochi tipo il bingo hanno evaso sulle tasse da pagare allo Stato. Si facciano pagare e si lasci il 55% per l'edilizia. Con tutto quello che avanza, si possono aiutare le famiglie, le imprese, le scuole. Rudi, provincia di Treviso. Caro direttore, in Italia siamo abituati alle ingiustizie, ma queste danno ancora più fastidio quando arrivano dai nostri governanti. 4 anni fa ho stipulato un mutuo per la prima casa della durata di 15 anni al tasso fisso del 5,5%. A quell'epoca i tassi variabili erano attorno al 4%, ma io non volevo correre il rischio che i tassi si alzassero, cosa che poi è regolarmente avvenuta. Naturalmente all'epoca tutti volevano comprare immobili e si indebitavano a tasso variabile, a differenza di quello che avevo fatto io. Se l'avessi fatto anch'io, avrei potuto permettermi una casa più grande, con il rischio di non poter più far fronte alla rata nel caso in cui i tassi fossero saliti. Oggi che i tassi sono effettivamente saliti, cosa succede? Il governo li blocca al 4%, e sostiene i costi dell'eccedenza per alleviare le spese di quelli che, incautamente, hanno stipulato mutui, prendendo rischi che non potevano prendere. E quindi io, che ho il tasso fisso, non solo ho pagato migliaia di euro in più negli anni, fino ad oggi, ma devo anche sostenere con le tasse i costi che lo Stato si accolla oltre il 4% per i meno cauti. In una parola, questa è l'ennesima ingiustizia che premia i soliti furbi, quelli che non pensano al domani, quelli che aspettano il condono che poi regolarmente arriva, quelli che si indebitarono in equo, quelli che per un rendimento più alto si comprano i bond argentini. Antonio. Caro Antonio, sono almeno in parte d'accordo con lei. Quando un governo decide doverosamente di intervenire in sostegno a casi di difficoltà, deve anche prestare attenzione al fatto di mettere in atto interventi che rispettino l'equità e che soprattutto non premino i furbi a scapito degli onesti. Sulla vicenda dei mutui qualche aspetto di discriminazione indubbiamente c'è stata, ma il mercato ha fatto la sua parte. I tassi sono così rapidamente scesi da rendere praticamente inutile il provvedimento, offrendo così il tempo per pensare a misure meno affrettate e senza il rischio di discriminazioni. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.